la parola a Luigi Bonfanti, segretario generale nazionale, che concluderà i lavori. Poi siamo ancora qui per la mozione. Conclude la mattinata. Io credo che non sia neanche corretto dire che concludo, non ho partecipato a una parte anche dei vostri lavori. Io, come mio solito, chi mi conosce lo sa, cercherò di darvi qualche altro motivo di discussione e di approfondimento, perché ritengo che un segretario nazionale abbia il dovere di andare in giro ad ascoltare più che a parlare. Poi a livello nazionale decideremo al congresso, tenendo conto di tutto quello che è emerso nel lungo e stretto paese che è l'Italia, e decideremo tutti assieme quali sono le cose più importanti da fare. Io do un mio contributo alla discussione, partendo anche da alcune cose che ho sentito, ma anche da altre cose. Alcune mie riflessioni magari sono un pochettino particolari riguardo al Piemonte, ma io per il mio ruolo devo tener conto di quello che avviene nel paese. Ieri ero a Tirrenia, domani sono a Genova e lunedì sono in Calabria, e credo che in queste tre regioni in cui sono stato e andrò non sentirò le stesse identiche cose, ma il bello della nostra organizzazione è quello proprio di tenere insieme. Parto da alcune riflessioni generali che non sono, sembrano fuori dal contesto, ma non le sono. La prima: nessuno parla più in questo paese della situazione politica del paese. Abbiamo fatto 4 mesi di discussioni su referendum, non referendum, non entro nel merito, ognuno ha le sue idee e ha fatto quello che riteneva più giusto fare. Io prendo atto come sindacato che dopo quella data noi siamo tornati indietro di 30 anni. I temi politici, di temi di come sarà la legge elettorale, non gliene frega, scusate il termine, più a nessuno, che erano i temi per cui bisognava votare in un modo o nell'altro. E parlo di questo perché non è un problema avulso dai nostri problemi e dalle nostre battaglie. Tutti ci chiamano corpi intermedi, già il termine a me dà anche un po' fastidio, ma qualcosa è intermedio se esistono due realtà. Se esistono 25 realtà diventa difficile essere un corpo intermedio. Tutti parlano che non bisogna fare le larghe intese. Dopo questo referendum, comunque, quando andremo a votare minimo con 10-11 partiti, e quindi per governare ci vorranno o le larghe intese di sinistra o di destra o di centro, ma ci vorranno le larghe intese. Però tutti in televisione no, è una cosa che non va bene. E ripeto, guardate, io non sono amico né nemico di nessuno, poi quando vado a votare come voi voto quello che penso, ma un sindacato avrebbe bisogno e ha bisogno di un governo del paese, e in questa fase nel paese il governo non c'è, e se non ci si fa carico di riflettere non ci sarà. E quindi credo che per il sindacato sarà un problema ancora più importante. Ma c'è un altro tema che vorrei porre alla vostra riflessione. Guardate, io sento da troppo tempo dire il mondo sta invecchiando, e io dico per fortuna. Nel 2050 il 70% della popolazione sarà oltre 65enne, non si fanno figli. 30 secondi dopo non c'è qualcuno che ci viene a spiegare che, siccome questa sarà la realtà, cosa facciamo per far sì che si rifacciano figli? Cosa facciamo per dare risposte concrete a un mondo che sarà sempre più vecchio? Io questa domanda me la pongo. Voi pensate che non si fanno più figli solo ed esclusivamente per motivi economici? Certamente ci sono i motivi economici, un giovane che non ha reddito o reddito discontinuo, prima di mettere su famiglia, prima di tutte le cose che sapete che non ho visto, ci pensa su due volte. Ma io non credo che sia solamente questo il tema. Il tema deriva da 20 anni di dissesto culturale e sociale di questo paese. Per 20 anni nel paese abbiamo spiegato ai giovani che l'importanza non era la comunità, ma l'individuo. Che l'importanza era, per arrivare, un giorno doveva dare il calcio nel sedere a quello di fianco, che così arrivava prima. Non c'è più nessun valore in questa società. E anche di valori è fatto la creazione di famiglia, il mettere al mondo i figli. Non è fatto solo di problemi di natura economica. Guardate, ieri, l'altro ieri è uscita una ricerca fatta su 1.500.000 giovani dai 15 ai 25 anni. Il tema della ricerca era il lavoro. E purtroppo, come si fa oggi, non era una ricerca domanda-risposta, ma coi quadratini. E nelle varie risposte che questi giovani dovevano dare, ce n'erano tante: il lavoro continuo, il lavoro discontinuo, il lavoro parziale, l'orario di lavoro, e c'era in finale un quadratino inquietante, dice quanta è la retribuzione? Il 92% di questo 1.500.000 non ha barrato diritti, qualità del lavoro, ha barrato quanto prendo, quanto mi dai. E anche questo è un problema che ci deve far riflettere, perché magari è anche un po' colpa nostra, la metto così già, anche come sindacato dobbiamo riflettere se il valore vero del lavoro è solo la retribuzione, dopo che per 50, 60, 70 anni abbiamo fatto battaglie sui diritti. Vuol dire che c'è qualcosa che non siamo più in grado di comunicare ai nostri giovani, e quindi dovremmo riflettere, perché invece il lavoro, se è vero, come dicono tutti, non cito il Papa, perché sennò per pari opportunità dovrei citare Maometto, perché tutti citano il Papa, ma se è vero che il lavoro dà dignità alla persona, se non c'è lavoro, cosa succede? Perché questa seconda domanda non se la pone nessuno. Tutti si riempiono la bocca che il lavoro dà dignità. Punto. Quindi siamo una società poco dignitosa perché il lavoro non c'è. Riflettiamoci. Se è questo che abbiamo insegnato ai nostri giovani, anche come sindacato, una qualche riflessione nel prossimo futuro la dovremo fare per rinculcare il valore e i valori di una società e di una collettività, cosa che si è persa. Guardate, l'amico di Torino ha citato una cosa a cui tengo tanto, ma noi stiamo discutendo e stiamo litigando selvaggiamente con le rappresentanze delle associazioni sul tema, esempio, dei diritti individuali. La non autosufficienza, uno che ha diritto alla rendita perché è menomato, e c'è una grande discussione. Se questi soldi debbono essere distribuiti perché il diritto è individuale, e anche se sei il papà di Barilla devi prendere l'indennità di accompagnamento, o se invece, come dico io, che questa è anche una cosa individuale, ma deve essere rapportata al reddito che tu hai, e quindi l'indennità di accompagnamento te la do attraverso l'ISE. Ma è una battaglia non piccola, che arriva da quel giudizio che dicevo prima, perché anche qui noi dovremmo uscire allo scoperto. Per noi, come dicevo, vale più il nucleo familiare o l'individuo, perché da qui passano poi scelte che si fanno su tante cose. E io credo che il valore vero sia quello del nucleo, perché se no succede come con gli 80 euro. Noi non abbiamo dato 80 euro a gente che ne aveva bisogno solo perché aveva 50 euro di più di reddito, e in una famiglia, perché per fortuna lavoravano in quattro, hanno preso quattro volte 80.000 euro. Io credo che con grande serenità ne dobbiamo parlare, non possiamo far finta di niente, non possiamo far finta di niente. Io credo che di questo ne dovremmo parlare, ma dico di più. Guardate, abbiamo perso tanto di quel tempo poi entro nelle cose nostre e lascio alla fine, che così restano più presenti. La riorganizzazione. Io sono dell'idea che un grande sindacato è tanto più grande quando fa le scelte e magari scopre che sono scelte sbagliate e le cambia. Ma una cosa non è possibile: sentire qualche collega confederale che sta dicendo in giro, o di qualche categoria, che le scelte che abbiamo fatto sì, ma poi alla fine le attuano se lo vogliono le categorie. Se le categorie non lo vogliono, non lo attuano. Siamo fuori dal mondo. La riorganizzazione è una scelta confederale. Poi possiamo anche decidere che alcune cose che abbiamo deciso erano sbagliate e le cambiamo, ma ci deve essere sempre questa cosa confederale. Faccio un esempio tipico, perché io non ho problemi a sporcarmi le mani. Noi abbiamo deciso l'unione fra FEMC e FIM. Se si fa o non si fa, non lo decide la FEMC o la FIM, ma lo ridecide la confederazione, perché se no non andiamo da nessuna parte. Se no si confonde l'autonomia con l'anarchia, che è un problema che in questi anni ha attraversato spesso la nostra organizzazione. Se questo è il tema, con i nostri numeri potremmo anche decidere, essendo una confederazione, noi di fatto, di fare quello che vogliamo. Siamo fuori di testa, siamo fuori di testa. Bisogna che queste cose le decidiamo assieme, e questo tema lo riproporrò quando parliamo dei servizi. Bisogna che sulla riorganizzazione si vada avanti, perché sennò viene il dubbio che la riorganizzazione non sia stato un progetto politico, ma un modo per collocare le persone. E invece io credo che la riorganizzazione sia stata una grande scelta politica. Noi siamo la rappresentazione vera che, se c'è la volontà, si può riorganizzare. Noi abbiamo tolto le stellette di comandante a tante persone e gli abbiamo detto: continua a lavorare come lavoravi prima e forse di più, senza magari le stellette sulle spalle. E i nostri l'hanno capito, e noi abbiamo la gente nei territori che lavora. Poi anche qui c'è il dibattito meglio leghe che RLS, io ve la dico fuori dai tempi. RLS, abbiamo cambiato il nome perché senza il nome pensavamo che fosse più semplice cambiare. Poi quando saremo consolidati come modello organizzativo, se viene l'esigenza di richiamarle leghe, le richiameremo leghe, non è un problema. Il tema era di dare l'idea proprio del cambiamento, e anche il nome qualche volta aiuta il cambiamento. Poi il nome lo decidiamo, prima però consolidiamo questo modello che ci vede presenti, ahimè, noi e le unioni, col silenzio assoluto delle altre categorie, le zone sono presidiate solo, poi non so se in Piemonte invece c'è un altro clima, le zone sono presidiate dai pensionati e dalle unioni. Non è possibile, non si può andare avanti. Guardate, non è un fatto che ci rende più contenti perché ci siamo noi e quindi comandiamo noi, mai una cosa del genere. Non ce ne frega nulla di comandare, noi vogliamo partecipare a un progetto di vicinanza del sindacato ai lavoratori e ai pensionati, e le zone sono questo. Bisogna che al congresso chiariamo definitivamente questa cosa, se no il sindacato ritorna indietro invece di andare avanti. È un'altra cosa. Guardate, io vado per flash perché se no sto qua troppo tempo, e parlando per ultimo è meglio da una parte, ma dall'altra si rischia di parlare allo stomaco invece che alla testa, e quindi so benissimo questo anche per mia professione, quindi cerco di essere, vado per flash, poi però al congresso nazionale ci rivedremo e ne parleremo meglio. Guardate, c'è un altro tema di cui purtroppo non se ne parla. Io ringrazio, lui ha ringraziato noi, io invece ringrazio il giovane che avete qui a disposizione, perché ha dimostrato assieme a tutti gli altri 27 giovani che è possibile il grande sogno che abbiamo avuto di mettere insieme vecchi e giovani e dare in questo una capacità migliore al sindacato, chiarendo subito a qualcuno che ha qualche dubbio. I giovani ci devono dare una mano, la classe politica sarà sempre fatta da noi, perché siamo il sindacato dei pensionati. Poi io auguro al nostro amico di andare in pensione il più presto possibile, ma non sarà mai un dirigente nostro. Speriamo che nella formazione e nella vita quotidiana che fa con noi possa domani diventare una grande risorsa per la CISL e per il gruppo dirigente della CISL. Perché mi aggancio qui? Perché anche qui sono anni che facciamo chiacchiere sul gruppo dirigente. Facciamo chiacchiere. Non abbiamo più gruppo dirigente in questa organizzazione. E di questo bisogna che ne parliamo. Addirittura ci inventiamo. È 20 anni in cui prevale per essere dirigente la fedeltà sulla lealtà, che sono due cose molto diverse. Noi abbiamo creato un gruppo dirigente se era fedele al capo, non se era leale col capo. Perché questo lo voglio, se era leale, perché anche qui chiarisco, no, per non fare demagogia, chiarisco anche qui, forse abbiamo peccato per troppo tempo di non avere la voglia e la responsabilità di parlare, di discutere fra noi. Abbiamo sempre votato, parlo in generale, non parlo del Piemonte, abbiamo sempre votato all'unanimità, fuori dalla porta incominciavano i distinguo, non un giorno dopo, fuori dalla porta incominciavano i distinguo. Non è questa la democrazia della Cina. Ben venga se c'è qualcuno che ha idee nuove e diverse, una minoranza. Può essere una cosa costruttiva, ma se è una minoranza di idee, di proposte, non una minoranza per sostituire chi c'è e andare al suo posto senza mettere in campo nessuna diversificazione. Gli avvenimenti degli ultimi tempi sono l'opposto della democrazia. Sono l'opposto della democrazia. Sono l'opposto della democrazia. Di fronte ad alcuni avvenimenti ci si schiera non perché si pensa diversamente, ma per sostituire chi c'è. Questo non va bene. Questo non va bene. Se io mi ricordo, ero giovanissimo, qualcuno di voi forse se lo ricorda meglio di me, io ricordo sempre, per me un faro nella testa da quando ho iniziato la mia carriera. Tesi 1, tesi 2, il più alto momento di democrazia di questo sindacato. E lì non c'erano le discussioncine fra qualche fenomeno giovinastro che si candida a non si sa che cosa. No, lì quella sera del congresso c'erano i coltelli in mezzo alla bocca. Cioè lì si litigava seriamente, mettendo in discussione anche rapporti umani in quel momento di discussione. Alla sera, alla notte, dopo la votazione, è stato eletto un segretario generale. Il giorno dopo, quel segretario generale era il segretario generale di tutti. Questa è la democrazia. Poi una parte ha continuato giustamente a far cercare di prevalere nel dibattito continuo che c'è le proprie idee, ma è un'altra cosa. Nessuno si è messo nel tempo e nel modo di discutere il segretario generale eletto. Vale, parlavamo di personaggi che erano almeno per me 100 volte più alti di me, come qualità politica, e parlavamo di gente che ha fatto questo e ha fatto grande la CISL in questo. Oggi facciamo altre cose che non vanno bene. O c'è il coraggio di fare proposte diverse, o se no non ha senso. Negli ultimi mesi qualcuno ha pensato che la maggioranza dovesse fare la minoranza e la minoranza potesse fare la maggioranza. Perché anche qui la democrazia, senza che abbiate tutti la puzza sotto il naso come me, la democrazia è fatta anche di numeri. Non è che i numeri vanno bene quando sono mia a favore e non vanno più bene quando sono a favore di qualcun altro. Allora io credo che anche in questo congresso noi dovremmo con grande serenità discutere dell'organizzazione e della democrazia interna dell'organizzazione. Ma c'è anche un altro tema fondamentale che avete toccato quasi tutti voi, che è quello del welfare. e qui adesso riceverò qualche scomunica da qualche confederale. Io sono preoccupatissimo del come stanno andando avanti le contrattazioni sul welfare e la sanità integrativa. Primo, perché vorrei avere un luogo dove discutere cosa vuol dire integrativo. Nell'ultimo contratto di una grande federazione si è fatto un accordo di sanità integrativa dove una delle cose che viene venduta migliore, perché è vero, sono le cure, la dico volgare perché il termine odonto stomatologico, le cure del dentista. Qualcuno di voi riesce ad andare a farsi curare i denti in una struttura pubblica gratis? Allora quella non è integrativa, perché se io non ho il diritto vuol dire che quella è sostitutiva, visto che non me la dà il pubblico attraverso questo. Io voglio che nell'organizzazione ci sia una riflessione, che ci sia un coordinamento confederale su questi temi, se no fra qualche anno, visto che ci dicono che il 68% sarà fatto di anziani, gli anziani il welfare non ce l'avranno più, perché il servizio pubblico si tirerà sempre più indietro, perché il resto verrà garantito da assicurazioni, da cose, e anche qui il welfare che bisogna fare, che sia chiaro, che nessuno vada a dire in giro Bonfanti impazzito non vuole il welfare contrattuale, no, io voglio il welfare contrattuale inserito in un ragionamento in cui coordini la confederazione, non l'FNP che rappresenta i diritti dei più poveri, la confederazione in cui si uniscono le due opportunità, se no alla fine per quelli che rappresentiamo noi non ci sarà più nulla, e io credo che sia un tema che dobbiamo affrontare, non per togliere ma per cercare di armonizzare i due sistemi, perché se no di questo moriremo e avremo problemi. Bisogna che il cosiddetto welfare di comunità, il welfare di prossimità, chiamatelo come volete, diventi uno dei motivi veri di lotta alla povertà e al disagio delle persone che ne hanno più bisogno, se no non facciamo il nostro mestiere. E noi su questo ci saremo, noi ci saremo come ci saremo sulla riforma del fisco. Però anche qui, io guardate, poi siete che sono stanco, mi cambiate e va tutto bene. Ma io sono stanco di sentirne parlare. Io vorrei vedere che succede qualcosa. Noi, e quando dico noi, abbiamo raccolto le firme per la famosa legge di iniziativa popolare sul fisco. Noi, perché non so cosa è successo in Piemonte, ma nel resto dell'Italia le abbiamo raccolte noi le firme, se non sarebbero raccolte le firme. Allora, il tema del fisco per noi è fondamentale, perché qualsiasi contratto, perché lo chiamo così, e poi vi spiego l'accordo perché lo chiamo contratto, nazionale, viene vanificato in 10 minuti se non c'è a livello territoriale un fisco che dà anche lì prova della correttezza fra quelli che ne hanno meno e quello che hanno di più. Allora io credo che il fisco sia una battaglia congressuale fondamentale. Bisogna tirar fuori dall'armadio una parola che non usiamo più. Il 2 luglio, che finisce come, apriamo una vertenza per il fisco con il governo. Apriamo una vertenza tutti assieme per un fisco diverso, ma anche qui non scrivendo le cose che conosciamo e che sappiamo, partendo da 4-5, non le voglio decidere io, diciamo cosa vogliamo, perché così anche i nostri iscritti capiscono meglio, perché dire sempre e comunque la riforma del fisco. E secondo, tutti parlano sul fisco di combattere l'evasione fiscale e magari anche noi partecipiamo al dibattito se il liquido a 1000 euro, a 2000 euro, a 3000 euro possa essere, non cambia nulla con questi strumenti, perché c'è sempre il modo di evadere, la stessa fatturazione elettronica, i grandi già trovato il modo di fare altre, c'è un solo tema. E sul fisco, che può sconfiggere l'evasione fiscale, che si chiama, ma poi ve lo spiego, contrasto di interesse. Contrasto, se la mia amica segretaria del Piemonte, no, è una donna, no, se non mi accusano, se Vizio, che è vecchio, deve andare, che è vecchio, è una cosa bella. Anziano vecchio. Vecchio, anziano non fatevelo mai dire, quando vi dicono che siete anziani, perché vuol dire che vi diminuiscono rispetto a qualcos'altro, a quell'altro che giorno. Il vecchio è la storia di una vita, quindi è una cosa bella essere vecchi, anzi speriamo di diventare sempre più vecchi. Anziano vuol dire che non sei uguale a lui, lui è giovane e tu sei anziano. No, io sono vecchio e sono contento di essere quasi suo nonno, perché nella vecchiaia c'è la storia della mia vita. L'anzianità è una cosa terrificante. Allora, detto questo, quando il mio amico vecchio va dal dentista, si deve fare perché è vecchio la dentiera, il dentista gli dice: guarda caro amico Vizio, o mi dai 5.000 euro, mi dai, vuoi la fattura, 5.000 euro, se però me ne dai 2.500 nero, non c'è problema. 3.000. Quello che è, quello che è, non c'è problema. Allora, io non posso neanche andare a dire a Vizio: tu devi essere un cittadino serio e corretto, paga 5.000, perché mi risponde: non arrivo alla fine del mese se faccio questo, e quindi fa l'evasore fiscale nonostante sia notorio che Vizio è una persona seria. Allora io l'ho buttata un po' in ridere, ma qui c'è un solo problema: se il nostro amico Vizio avesse la possibilità di scaricare dalle tasse la spesa che fa dal dentista, diventerebbe immediatamente, perché ce n'ha un'utilità, un cittadino diligente, e il dentista dovrebbe pagare le tasse. Allora io credo che questo sia il tema fondamentale, il conflitto di interesse. Poi so benissimo che qualcuno mi dice: se facciamo questo il giorno dopo lo Stato va in difficoltà. Non c'è problema, noi facciamo i sindacalisti, facciamo i programmi pluriennali, decidiamo che questa è la regola, poi il primo anno per 2 anni si può detrarre il 20%, agli anni successivi e di andare per arrivare al 100%. Ricordo a voi che Al Capone, non un ragazzino qualunque, per il sistema americano che ha tanti altri difetti, ma sul fisco non ce l'ha, è andato in galera per il fisco, non perché ha ucciso 200 persone. Allora io voglio dire, parliamone, poi quello che propongo io non va bene, ma sono sicuro che va bene. Qualcuno tiri fuori qua, ma a me sentir dire bisogna fare la lotta all'evasione fiscale, ci fermiamo lì, mi dà fastidio. Credo che al congresso, come su tutti i temi, dobbiamo uscire con delle proposte concrete che i nostri iscritti capiscono e dicono: guarda, si sono riuniti, hanno riconfermato la Furlan, non hanno riconfermato quello, però noi combattiamo con loro per A, B, C, D e F, G, perché sennò non siamo più in grado neanche di andare a parlare con i nostri iscritti. Ma su questi temi ce n'è un altro ancora più importante. Guardate, io non so più come dirla, la dico in maniera poco corretta, politicamente scorretta, ma comprensibilissima: i servizi. Guardate, per fortuna sono medico e so come curarmi, ma io ho la nausea continua a continuare a sentire giustamente le lamentele. Oggi voi qui siete stati, non so ieri, ma oggi siete stati bravissimi, perché ne avete parlato, però siete stati dei gentiluomini e delle gentildonne. Io vengo dalla campagna, dove a un CAF della CIS di fianco ci sono 3 CAF non corretti, fatti dalla camorra e roba del genere, e quindi con qualche problemino in più. Non so se anche il nostro è inquinato, perché mi guardi male, quindi lo dico subito, non so se anche il nostro è inquinato, però teoricamente no. Ecco, io credo che anche sui servizi noi dobbiamo incominciare a decidere, non a chiacchierare. Io faccio una proposta, poi qualcun altro ce n'ha delle altre. Primo, la Confederazione si deve assumere l'onere di essere garanti per l'organizzazione dei servizi. Il capo dei servizi tutti è la Confederazione, che fa la gestione politica, decide ogni anno, ogni tre anni, quali sono le linee direttrici politiche sui servizi. Poi dopo ci avremo direttori, non direttori, no, chiamiamoli come volete, che gestiscono, ma su assunzioni di responsabilità collettive in capo alla Confederazione. Se no non andiamo più da nessuna parte. Secondo, una casa comune. Una casa comune, non è più possibile e immaginabile, parlo di Roma, che un nostro vecchietto vada in Viale Regina Margherita e siccome magari mentre è lì per un problema gli viene in mente che ce n'ha un altro e gli dicono guarda no, per quell'altro problemino che magari riguarda il CAP devi andare in via Guglielmo Marconi, che è distante di più che di qui a Torino in termini di traffico, e ci vai fra 15 giorni. No, guardate ragazzi, io l'ho avuto in ridere, ma se perdiamo un iscritto noi pensionati con i servizi non lo riguadagniamo più. Se lo perdono i lavoratori per sfiga loro, che purtroppo nella loro vita si scordano di essere stati trattati male e poi magari hanno qualche problema per questa discontinuità anche del mondo, è anche possibile che ritornino ai servizi magari dopo due o tre anni, ma un pensionato perso è perso. Io credo che di questo ne dobbiamo parlare. Abbiamo fatto un accordo dicendo che davamo 10 euro per iscritto. E guardate, per me non è una spesa, è un investimento. Devo purtroppo dire che sono scontento ma contento, non ho ancora speso un euro. Non ho ancora speso un euro di quei 10 euro. E in più c'ho una ricaduta peggiore, abbiamo detto vi diamo 10 euro, quei 10 euro dovrebbero essere finalizzati a dare risorse a quegli operatori che fanno gli iscritti. Inventatevi i premi di produttività, quello che volete, ma incentivate i lavoratori a fare iscritti. I lavoratori che invece immaginano e pensano questi 10 euro che non si sono ancora visti perché non fanno, che vadano a ripianare il deficit dell'INAF, e non solo non ci fanno gli iscritti, ma quasi incavolati ce ne fanno ancora meno di prima. Non è Piemonte, ma in Italia succede questo. Allora ne vogliamo ragionare? Perché se no, vedete, è anche un'altra cosa anche qui, io non accetterò più, ve lo dico qua, voi non mi votate e siamo pochi, mai più un euro ai servizi, se non in cambio di un progetto. Non si può venire in esecutivo confederale a chiedere ancora per ripianare i debiti un euro a iscritto. Io sono vecchio dell'organizzazione, ne ho già vissute 10 volte queste cose e non è mai cambiato nulla. Ma non ci danno i soldi, il governo non ci dà i soldi. Ma perché anche lì andiamo in piazza, noi ce li portiamo a Piazza del Popolo i nostri, perché il governo i soldi ce li deve dare, perché quei soldi non fanno parte del bilancio dello Stato, sono risorse che derivano dai lavoratori e dalle aziende, è una distrazione dei fondi. Se no a me viene il dubbio, e penso che venga anche agli iscritti, che noi non ci arrabbiamo perché non ci danno i soldi, che ce li devono perché facciamo un servizio pubblico, non per altro, e sono soldi nostri, lo ripeto. Se no a me e ai lavoratori e ai pensionati viene il dubbio che noi non facciamo l'avvertenza al governo perché abbiamo qualche problema da nascondere, e quindi abbiamo paura di qualche ripicca. Ben vengano le ripicche, andiamo in piazza altre tre volte in più. Ma non esiste, non possiamo accettare che ogni sei mesi, ogni anno, ridiscutiamo che il CAF non vive, quell'altro non vive, storie di questo genere, senza mai mettere in discussione, aprire una vertenza vera fra lavoratori e pensionati e il governo, che questi soldi li deve tirare fuori, perché ci sono. E in più noi dobbiamo fare l'altra battaglia, perché si unificano i due servizi. Si unifichino i due servizi. Qualcuno mi risponde facendomi, scusate la volgarità, incazzare, ma ci sono le leggi. Quando ho cominciato a fare io sindacalista, il primo corso di formazione, un grande professore che non vi dico chi è, ma grande sindacalista, mi aveva spiegato a una mia domanda un po' da giovane, quindi un pochettino, dice no ma guarda, Io dico, ma la legge prevale. Dice sì, sì, ma il sindacato nasce per fare le battaglie per cambiare le leggi che non vanno bene. Allora, se c'è la legge e non va bene, anche qui facciamo una battaglia per cambiare, ma non è vero che c'è la legge, perché gli altri lo fanno. Noi nell'accordo dei 10 euro all'INAS abbiamo messo anche che vogliamo le password. Non ce l'hanno data ancora nessuna, non è possibile. Ma voi pensate che noi diamo la password a tutti quelli che magari sono un pochettino strane? Primi noi abbiamo la necessità di dare la password a delle persone serie e preparate, ma non ce le danno. La CGL, tutti gli altri le danno, danno per dare una password. Perché lo deve decidere il direttore generale nazionale a Roma? Siamo fuori di testa. Questo non è un servizio. Bisogna che anche qui ci sia la regia nazionale, ma la gestione deve essere affidata ai territori, perché Torino non è uguale a Napoli, Napoli non è uguale a Parma. Bisogna non si può immaginare che un operatore non sfruttato, ma un operatore che ha voglia, perché vede lì un vecchietto che è arrivato alle 6 meno 5 e alle 6 deve chiudere, gli deve dire torna perché io devo, se non chiudo alle 6 ho delle grane. Ma non esiste, è un servizio dell'organizzazione. Questo non per sfruttare i dipendenti, eh. Noi siamo solidarissimi con i dipendenti dei servizi, un po' meno con i dirigenti. Detto questo, io credo che sui servizi la scelta vada fatta. Una casa comune, faccio una battuta che non è demagogica, perché la porrò anche al sindacato, eh? Ma voi ci pensate, solo una cosa, a fare un'unica sede dei servizi, solo ai risparmi più macroscopici, oppure esempio, mi spiegate perché nell'FNP, non dico ai livelli di RRF, ma territoriali e regionali, ognuno si deve comprare la carta per fotocopie, facendo in modo che succeda quello che succede che succedeva con le siringhe, dove a Roma una risma e poi ne compravi due, quindi grandi sconti. Perché non incominciamo anche noi a pensare e immaginare? Non gestita dal nazionale, così tiriamo via tutti i dubbi, ma gestita da un gruppo di territoriali e regionali, di incominciare a fare anche noi un pochettino di valutazione delle nostre spese e di ridurre le spese. E anche qui lo dico con grande serenità, sono matto perché ho ancora il congresso da fare io, però lo dico. Amen. Se qualcuno si arrabbia perché rispetto alle due risme di carta riceveva una penna birra in regalo, siamo in grado anche noi di comprare la penna birra. No, ma la butto in ridere, ma non è questo. È proprio una mentalità che deve cambiare. Se si fanno sinergie, ma pensate alla casa unica dei servizi, pensate solo ai computer, io dico anche alla caldaia di riscaldamento. Abbiamo due realtà a Roma fuori dal mondo. Io credo che dovremmo di questo parlare anche a livello territoriale, perché se no, se non unifichiamo. E l'altra cosa sui servizi, e chiudo su questo tema, è questa. Io ho fatto la battaglia negli anni 60 e 70, venendo dalla sanità, come tanti di voi, per avere la riforma sanitaria. E lo slogan di quel periodo era: è lo Stato che deve andare incontro al cittadino e non il cittadino che deve girare il mondo per avere le cure dallo Stato. Fare la stessa cosa per i servizi della CISL. Io voglio sapere da qualcuno che mi spieghi perché uno si iscrive alla CISL e se ha bisogno della Diconsul, del SICE o di qualche altra cosa deve comprare un'altra cosa. Io lo voglio sapere. E mentre dico questo, so benissimo che il primo che deve mettere la mano nella tasca dei soldi siamo noi. Ma cosa costa dire diamo un servizio all'iscritto e assumiamoci noi, gruppo dirigente, il modo di come risolvere il problema? Se per risolvere ci dobbiamo meglio tassarci per quello che non per ripianare i debiti di qualcun altro, questo è il tema. Ma no, non dite bravo se no non lo teniamo. diciamo, no, perché noi siamo già un po' troppo grossi e quindi crea un po' di problemi, bravo, anche te. Allora io credo, adesso senza demagogia, ma è veramente ridicolo, ma io me li sento, anche se sono, mi sento la gente dice, ma perché sono andato alla Dicosu, ho dovuto comprare la tessera, ma la tessera da circo mi serve, vado al CAP e devo pagare, vado all'INAS se non faccio una cosa solo per la pensione, ma cioè mi devo pagare, vado al SICET perché ho problemi e sono, devo pagare, ma mi vuoi spiegare che cosa servono i soldi che ti do? Punto. Allora anche di questo io vorrei che il congresso se ne discutesse per poi trovare soluzioni, poi quello che proponiamo noi non va bene, ci propongano qualcosa che raggiunga lo stesso obiettivo, noi siamo pronti a collaborare perché si raggiunga l'obiettivo. Ma guardate, sono cose che sembrano da poco, ma per i nostri iscritti sono cose fondamentali. Per noi dirigenti potrebbe, ma Bonfanti sta parlando di creatinatine, no, no, per i nostri iscritti sono fondamentali perché sono la loro vita quotidiana. E di questo bisogna parlarne, bisogna decidere, bisogna fare in modo che l'iscritto si senta nella sua casa, nella casa che dico io comune. Poi l'ultimo, l'accordo. Allora, qualcuno di voi l'ha detto, e quindi lo dico, se no non l'avrei detto. L'accordo non è frutto della segreteria nazionale di Bonfanti o della Forlano. L'accordo si è fatto perché voi, i nostri iscritti, siamo stati in grado tutti assieme e con le manifestazioni e col lavoro fatto nei territori di cambiare la sensibilità della gente nei confronti dei pensionati. E quella manifestazione di Roma è stato il grimaldello. Senza quella manifestazione il tavolo non si apriva. E dirò di più, siccome il clima per motivi vari era molto favorevole ai pensionati, perché avevamo messo in mostra che le piazze le occupiamo e in quel periodo il generale che era al comando guardava più alle piazze che non alle idee, noi abbiamo scucito in un periodo di crisi 6 miliardi e mezzo. Per il clima che c'era, quei miliardi potevano essere divisi in maniera diversa, più a favore nostro. Ma siccome quel tavolo era un tavolo confederale e dell'FNP, per la prima volta i tavoli sia dei pensionati che non dei pensionati, che dei lavoratori, partecipa la confederazione e i pensionati. Oggi, e questo vi dice che la seconda fase è già partita, oggi c'è un incontro che non riguarda i pensionati, ma c'è la nostra amica Patrizia per i pensionati al tavolo. Il 13 c'è un altro ancora tavolo dove noi partecipiamo, la seconda fase è già cominciata e adesso vi dico su cosa e su come. Ma dico, a quel tavolo, volendo, invece noi abbiamo fatto la scelta cosciente che siccome era un accordo difficile con la CGIL che nella prima fase non voleva neanche sentirne parlare, abbiamo detto noi vogliamo che questo tavolo porti a un risultato dopo 10 anni di silenzio, non solo per i pensionati, ma anche per le cose, che tenga dentro nello stesso tavolo i giovani, quelli non più giovani che stanno andando in pensione e i pensionati. Questo è l'accordo politico più bello. È un accordo che tiene conto delle 3 generazioni e abbiamo diviso le risorse a disposizione equamente rispetto alle 3 problematiche diverse. E abbiamo anche qui, ve lo dico subito, privilegiato gli iscritti, mentre nella seconda fase teniamo conto, con le cose che adesso vi dico, anche dei dirigenti, nel senso che mi sono fatto fare anche oggi l'aggiornamento. Il 800.000 iscritti, no, 600, quasi 1 milione di iscritti dell'FNP sono nella fascia fino a 750 euro. La seconda fascia grossissima è di quelli fino a 1.100-200 euro. Noi ci siamo riferiti nella prima fase a quelli, cioè ai nostri iscritti. nella seconda fase a tutti gli altri iscritti, che valgono allo stesso di questi, ma siccome dovevamo fare una scelta, la prima fase è stata per questi, ed è stata la fase della quattordicesima. Guardate, la quattordicesima non l'avete ancora vista, perché essendo uno strumento che a luglio vi viene data, ma la quattordicesima è aumentata del 30% per chi la prendeva, e a 1.200.000 pensionati in più gli viene data così, già aumentata del 30%. Non è una cosa da poco, eh? E la quattordicesima, lo voglio chiarire, perché facciamo chiarezza, abbiamo privilegiato, combattendo col governo, il fatto che la quattordicesima, per quanto mi riguarda, è il contratto di lavoro dei pensionati e viene data a seconda degli anni di contribuzione, perché è previdenza e non è assistenza, è un diritto del pensionato ad acquisire una retribuzione congrua e onesta, perché il governo voleva fare un'altra storia, voleva fare la storia di non tener conto dei contributi, e noi abbiamo fatto, come abbiamo fatto purtroppo, consapevoli o inconsapevoli, tante volte, avremmo dato la quattordicesima agli evasori fiscali, cosa che noi non abbiamo accettato, perché la quattordicesima la prende solo chi ha versato, e la prende in maniera diversificata a secondo se ha versato pochi o tanti contributi, e questa è una scelta. Per questo non va bene, non perché noi non vogliamo tenere conto, non va bene l'ISEE, perché l'ISEE è uno strumento corretto, come dicevo prima, ma sull'assistenza sociale, dove il cittadino che contribuisce col fisco deve sapere che quei soldi vanno ai più poveri veramente. Questo è uno strumento previdenziale, non è uno strumento assistenziale. E questa non è una cosa da poco. Io avevo le braghine corte quando scrivevamo le piattaforme, commettendo dentro. Secondo, la no tax area, quando ne capirete la forza, perché vi verrà calcolata, siccome è fiscale anche questa, siccome parte nel 2017, vale di più, perché abbiamo fatto i conti, degli 80 euro. E ha un vantaggio in più, perché gli 80 euro sono stati dati a qualcuno. La no tax area vale per tutti, perché essendo il fisco per fasce, tutti usufruiscono della no tax area per quella fascia di reddito. Anche chi ha un reddito 4 volte il minimo usufruisce della detassazione per quella quota fino a 8.000 euro, su cui non paga tasse. Anche questa battaglia storica di questo sindacato, dentro nell'accordo c'è, è già vigente, non lo dobbiamo conquistare, ma dico di più. Nella seconda fase, che abbiamo già iniziato, ci sono altri tre, come li posso chiamare, tre grandi miti di questa organizzazione. Parto da quello che io ritengo meno utile, il paniere. Io quando sono entrato nel sindacato pensionati mi si parlava di paniere, mi veniva in mente quell'attrezzo dove mia madre metteva il pane quando metteva in tavola, poi invece ho capito che il paniere era un'altra cosa. Ma voi pensate che oggi la rivalutazione delle pensioni viene calcolata attraverso le spese dei pensionati, e nelle spese dei pensionati vale di più il joystick del computer che non le spese mediche. Allora abbiamo chiesto e ottenuto, cosa non semplice, perché a quel tavolo deve venirci l'Istat, l'Eurispes e tanti altri nomi che non vi dico, perché è una cosa delicata a togliere e mettere, ma per fare in modo che quando c'è la svalutazione le spese del pensionato siano calcolate realmente sulle spese effettive che fa, non su quelle teoriche che può fare lui, perché lui ha altre esigenze. Anche nello stesso generi alimentari, qua ci sono studi specifici che differiscono la spesa alimentare fra un giovane e un anziano, con differenziazioni non piccole, e che vivete tutti i giorni ognuno di voi. Allora anche questo paniere verrà finalmente modificato, e ci sarà un paniere solo e esclusivamente per i pensionati. L'altra cosa, battaglia epica, ultimamente portata avanti solo dall'FNP, la separazione fra assistenza e previdenza. Cosa di 20 anni fa. Guardate che non è una cosa da poco, perché dividere l'assistenza dalla previdenza vuol dire avere più risorse per la previdenza, e finirla con dire sui giornali che noi siamo il paese che spende di più per i vecchi e non si interessa dei giovani. Fatta la separazione, qualcuno o si va a nascondere o se no lo facciamo nascondere noi, perché si verificherà che noi siamo in termini penultimi in Europa per la spesa pensionistica. Poi abbiamo una grande spesa sociale, ma è un'altra cosa. La spesa pensionistica è al di sotto della media del paese, ma più in noi abbiamo un'altra cosa molto strana e bella, di cui tutti fanno finta di non sapere, ma che sanno benissimo, ma noi a quel tavolo chiederemo che se ne parli, che siamo l'unico paese che paga a un livello così alto le tasse sulle pensioni. In poche parole, noi paghiamo le tasse sui contributi che versiamo, poi quando riceviamo di ritorno i contributi che abbiamo versato, ci paghiamo su una cosa, e non le paghiamo tenendo conto che una quota l'abbiamo già pagata, ma le paghiamo alla tassazione normale. Allora io credo che anche questa sia una battaglia di giustizia. Io non voglio arrivare alla Germania. In Germania, che tutti prendono esempio quando gli fa comodo, le pensioni non vengono tassate, perché se ho reddito procrastinato nel tempo non vengono tassati, ma io non dico che dobbiamo arrivare lì, in altri paesi, ma certamente non con l'aliquota marginale, perché paghiamo, ma anche sul fisco dovremmo anche discutere di un'altra cosa. Noi siamo il paese che sul fisco paga le tasse anche sulle accise e sull'IVA, cioè non paghiamo le tasse solo sul costo di una prestazione d'opera, ma paghiamo le tasse sulle tasse governative che ci sono, perché il costo diventa per noi. Allora io credo che queste qua a quel tavolo ci sono, e ovviamente faremo, se servirà li richiameremo a Roma, ma questo secondo tavolo è l'ultimo tema che ho lasciato appositamente per ultimo, è quello della rivalutazione delle pensioni. Allora, se io volessi ricevere applausi e 100 voti in più al congresso, mi metterei qui a fare il demagogo populista e a spiegarvi che a quel tavolo faremo cose inumane, e invece vi spiego quello che noi abbiamo unitariamente chiesto. Allora, il recupero dei soldi di questi 10 anni non ce li dà mai nessuno, e sarebbe anche in questo clima politico di difficoltà anche nei rapporti internazionali, secondo me, un errore politico. Poi se mi sbaglio mi giudicate. Però noi abbiamo chiesto, convincendola lo SPI, perché di questo lo SPI, mentre va a fare il demagogo nelle piazze, non ne voleva neanche parlare, ma non per colpa del mio caro amico segretario dello SPI, ma per il brutto clima che c'è fra SPI e CGL. Non so se qui in Piemonte è la stessa cosa, ma a livello nazionale siamo a un livello quasi di non parlare, e dirò di più a merito del segretario nazionale dello SPI, che noi abbiamo firmato il contratto perché io e lui avevamo fatto l'accordo che se la Camusso non firmava, firmavano i sindacati dei pensionati unitariamente, per mettere in difficoltà. Poi ha firmato, mi piacerebbe regalarvi, non il libro, ma l'accordo, perché sfido chiunque, se in mezz'ora trova qual è la firma della Camusso. Giuro, perché io l'ho vista firmare e quindi dico che l'ha firmata. Ma se vuoi, no, neanche nascondo, da tanto che è piccola non si vede qua, perché da tanta voglia che aveva di firmare che non so neanche se ha scritto la, comunque è la sua sigla. Ma per dire, il clima non è una battuta, è un clima pesante che c'era. Ma ripeto, allora unitariamente abbiamo deciso questo. Abbiamo chiesto al governo, e in questi giorni alla trattativa avremo le risposte, di costruire il cosiddetto montante virtuale. Per ogni singolo pensionato verrà calcolato cosa sarebbe stata a gennaio 2019, perché la sua pensione si è rivalutata, purtroppo non molto perché in questi anni la svalutazione è stata... Ma comunque, cosa sarebbe stato per ognuno la pensione in quel momento? E abbiamo chiesto e dobbiamo ottenere, che quando riparte la rivalutazione il 1 gennaio 2019, poi vi spiego come, va a finire su quel montante. Quindi invece di avere, ad esempio, il 10% di rivalutazione su 100 euro, ce l'avrete su 150, e quindi lentamente il periodo perso si recupera, però diluito, e quindi il danno dei 10 anni di non rivalutazione non è eterno, ma viene lentamente recuperato, e già dall'inizio c'è un qualcosina in più. E questa cosa è unitaria sulla rivalutazione. Nella condizione politica dove siamo, e visto il clima anche fra CGL, CISL e UIL, abbiamo deciso come pensionati unitari di fare la proposta, già acquisita, questa non la discutiamo nella seconda, già acquisita, che al 1 gennaio, noi al tavolo cercheremo di vedere se partiamo prima, 1 gennaio, perché c'è la legge del ragazzo stai sereno, quella legge di come si chiamava, Presidente del Consiglio, Letta, e scade il 31 dicembre 2018. Il 1 gennaio abbiamo chiesto e già ottenuto che riparte il famoso accordo Prodi, che era l'unico accordo fatto dai sindacati che teneva conto non solo fino a 2 volte il minimo, fino addirittura credo 7-8 volte il minimo, ma un accordo unitario, l'unico accordo fatto, che adesso si chiama legge XY, e quindi abbiamo trovato, perché riaprire una discussione portava a differenziazioni, e quindi riparte una cosa conquistata da noi, quindi una cosa buona e importante. E questa è la seconda fase dell'accordo, che in questi giorni sta andando avanti. Io finisco con una cosa e vi lascio andare a mangiare mentre io vado verso Genova. Io so, nell'accordo che riguarda non i pensionati, se volete ne parlo un attimo, ma io credo che nelle varie assemblee dei lavoratori ve ne abbia parlato, quindi non ve ne parlo, ma faccio una battuta. Cioè anche lì nella seconda fase, per i lavoratori che possono andare in pensione giovani, abbiamo fatto delle cose che io ritengo impensabili fino a qualche mese. Al tavolo già oggi è in discussione la famosa pensione di garanzia, cioè il fatto che per i giovani che hanno discontinuità lavorativa ci sia comunque, non se non hai fatto 20 anni continuativi, no, che ci sia un modo, un modello, una modalità di una pensione di garanzia che ti dia diritto, al di là della discontinuità, a un certo punto di avere una pensione di garanzia. Anche qui credo importante, perché io penso che nel paese non possiamo continuare ad andare avanti a finanziare il non lavoro. Noi siamo stati costretti, perché sennò c'erano tanti lavoratori che avevano difficoltà, però bisogna fare un salto di qualità, le risorse investirle per fare lavoro, perché sennò continuiamo solo a investire sul non lavoro. E questa pensione di garanzia è importante, ma l'altra cosa sempre per i giovani è che pretendiamo al tavolo, e l'abbiamo messo all'ordine del giorno, che si discuta sulla previdenza complementare, facendo una cosa fondamentale, quella di renderla obbligatoria, se no nessuno la fa. Poi, siccome qualcuno ha già risposto siete anticostituzionali, la chiameremo in un altro modo: il silenzio ha senso. Tu entri nella previdenza complementare, se non ci vuoi stare decidi tu di toglierti, ma ti togli tu. Se non lo facciamo, è ovvio che se passa questa cosa sarà ulteriormente detassata per incentivarla ulteriormente, ma se non si fa questo credo che sarà un problema importante. L'altra cosa, l'accesso alla pensione anticipata. Guardate, io ho sentito tante di quelle castronerie sull'APE. Con l'APE, non mi piace il termine, ma con l'APE noi abbiamo garantito il diritto a tutti di poter andare in pensione 3 anni e 6 mesi prima. Poi a quelli che rappresentiamo noi, ai più deboli e ai più poveri, a quelli che avevano lavori usuranti, perché anche qui tutti i lavori non sono uguali, alle maestre di scuola, l'ha chiesto l'FNP, alle maestre delle scuole d'asilo nido che hanno un lavoro usurante, questi qui vanno in pensione senza spendere un euro. È ovvio che al direttore di banca abbiamo garantito il diritto, ma se ci vuole andare per fare un altro lavoro, se lo paga, ma mi sembra anche normale. A noi interessa salvaguardare quelli che rappresentiamo. Il mio problema su questa grande novità che abbiamo ottenuto è che succederà come è successo con gli esodati. Gli esodati, non ve lo dico in termini di cassetta nostra, gli esodati che avevano come unico finale per il sindacato con 8 salvaguardie, ha garantito gli esodati, non li ha garantiti qualcun altro, li ha garantiti il sindacato. E poi abbiamo l'accordo anche col governo, siccome non dovrebbero essercene più, se ci sono casi particolari non cumulabili, il ministro è anche disponibile a discutere. Quindi gli esodati li ha garantiti il sindacato, non il destino, ma anche di questo non se ne parla. Il tema che pongo io però è un altro. L'esodato che aveva e che ha solo come fine ultimo la pensione, non il rientro al lavoro. L'esodato va in pensione, finito. Sono nella terra di nessuno. Con qualche categoria che se gli parli del suo esodato, ah ma questo è ancora mio. E il finale è che noi di questi esodati, quelli che hanno già finito il percorso, non ne abbiamo recuperato neanche uno. Dopo che abbiamo lavorato per fare in modo che questi qui fossero garantiti. Io temo che succeda, salvo casi rarissimi. C'è una grandissima esperienza a Milano, ce ne saranno alcune isolate in Piemonte, però nella massa, nel concetto, gli esodati non sono rimasti esodati, sono diventati figli di nessuno. Io credo che non sia giusto, perché io credo che questi devono arrivare a noi, almeno quelli che nella vita lavorativa erano iscritti con la CIP, poi se ne vengono anche altri meglio. Io poi credo un'altra cosa, con l'APE spero non succeda la stessa cosa. Io credo che noi ci dobbiamo sui territori mobilizzare con le categorie per fare in modo che a questi signori che andranno utilizzando l'APE gli si vada là, siccome dovranno andare anche all'INAS per farla, o al CAF per fare la pratica, che gli venga detto: guarda che noi ti abbiamo garantito questo, qui c'è la tessera da firmare. Perché veramente, se no siamo, credo, fuori dal mondo. Siamo fuori dal mondo. Perché? Per terminare, perché vi ho detto questo? Perché, guardate, a me e alla mia segreteria, e alla segreteria del Piemonte, e alla segreteria di tutte le regioni, manca solo di prostituirsi, e poi, termine buono, non è un termine. No, ma non è solo quella, vedi, ragioni da donna. La prostituzione è un atto prima psicologico e poi fisico. Detto questo, manca solo quello, manca solo vendersi l'anima, che secondo me è peggio, però manca solo vendersi l'anima, e le abbiamo provate tutte. La continuità associativa è una bella parola di cui ci riempiamo la bocca, ma che non avviene. Noi abbiamo provato a categorie, a dirgli che gli diamo un qualcosa per iscritto, ad altre categorie abbiamo detto che ci danno la tessera, noi gli lasciamo per un anno i contributi, ad altre ancora che ogni anno a settembre sanno prima chi è che va in pensione, la scuola. Gli abbiamo detto: scrivi una lettera, ti paghiamo l'inchiostro, la carta, il francobollo, se vuoi la controfirmiamo, poi ti lasciamo. È ovvio che a tutti quelli che abbiamo spiegato, siccome i furbi ci sono dovunque, che prima aspettiamo un anno e se questi restano iscritti noi diamo quello che abbiamo. Non è cambiato nulla, le uniche due categorie, parlo in generale, quindi non offendetevi qui, le uniche due categorie che hanno una continuità associativa sono la FLEI, che è un sindacato, come la posso chiamare, aziendale, e la FAI. Le altre, non c'è nulla. Non c'è nulla nel senso di una cosa organica, poi c'è gente che arriva anche l'altra, ma per motivi diversi. Non c'è rapporto fra federazioni. E io credo che questo sia un'altra cosa che non va bene. Io non so più che cosa proporre, perché più che lasciare i soldi, non so cosa lasciare, perché è ovvio che la delega deve venire a noi. però riflettete, perché diventa un problema per il futuro proselitismo. E anche qui, guardi, i servizi sono importanti, fondamentali, e chiudo veramente. Però ritorniamo a essere, torniamo un attimo giovani, quando nelle fabbriche andavamo in mezzo ai lavoratori. I nostri lavoratori sono i vecchietti che vivono in solitudine, che hanno bisogno che qualcuno vada da loro. Le sedi sono fondamentali. Per oggi è anche importante uscire dalle sedi, andare in mezzo alla gente, andare, anche se qualcuno non è d'accordo, a suonare i campanelli, a fare in modo. Guardate che non è una cosa difficile andare a suonare i campanelli. Io vengo dall'Emilia Romagna, notoriamente molto rossa, e vi faccio l'esempio per farvi capire che non è impossibile. Mia madre, cattolica, bigotta, speriamo non si offenda, e roba di questo genere, al mattino alle 10 della domenica sentiva suonare il campanello, andava ad aprire e, arrabbiata com'era, vedeva un signore, un giovanotto, con l'unità in mano che gliela offriva. Lei sbatteva la porta, un po' indignata, secondo me diceva due Ave Maria anche dopo, o robe del genere. Ma la cosa ancora peggiore, alle 11:30 suonavano ancora e alla porta c'era una gentile signora che offriva a noi donne, i più vecchi si ricordano che era il giornale del PC per le donne, e lei la stessa signora. Perché vi dico questo? Noi siamo organizzati e disseminati molto meglio del PC emiliano di quei tempi. Ma perché, non dico andare a vendere, ma perché non siamo in grado di contattare i nostri scritti? Guardate, la malattia più brutta di un vecchio è la solitudine. Muoiono più vecchi per solitudine che per altre malattie. Facciamo in modo, organizziamoci. Noi a Roma stiamo sperimentando, noi segreteriamo, assieme all'Anteas, di prenderci un giorno dove il segretario generale o il segretario vanno nei quartieri a suonare i campanelli. Bisogna a suonare i campanelli, ma è un modo di dire, vi potete inventare quello che volete, ecco. Quello che volete, suonare i campanelli, perché era la cosa più semplice che noi possiamo fare in una città grande come Roma, che non ha parchi, che non ha altre modalità di mettere insieme la gente. E non trovi come magari a Torino, al parco, non so come si chiama, del Valentino, una massa di anziani. No, lì l'unico modo è veramente entrare nel quartieri, entrare nei quartieri, farci vedere, se serve organizziamo delle gare di briscola, se serve andiamo da quel venditore di vino che diceva e compriamo un po' di bottiglie di vino, non lo so, sto esagerando, ma torniamo in mezzo alla gente, ce n'è un bisogno anche sociale, non solo sindacale, il nostro sindacato deve farsi carico anche di questo. Detto questo, io vi auguro buon lavoro, anche se politicamente scorretto. Faccio gli auguri al nuovo segretario della FNP del Piemonte e ci vediamo a Roma. Auguri.